In questo momento Ferrara non vive una situazione facile, però in Italia un allenatore che inizia il campionato e finisce il campionato nella stessa panchina non è un allenatore, è un eroe. L'allenatore deve sopravvivere, non innovare. Di chi è la colpa? Non lo so. Degli allenatori non sarà sicuramente. Secondo me è perché in Italia c'è troppo soldi in calcio e i club hanno soldi per pagare a 3, 4, 5 allenatori, non lo so. Però è molto difficile essere allenatore in Italia. Beh, se non è la prima, forse è la prima volta che gli darei un 8 anche abbondante a Mourinho per queste considerazioni, per queste riflessioni a voce alta, tra l'8 e il 9, anche perché insomma, in quel finale i troppi soldi per pagare gli allenatori, eccetera, c'è anche secondo me un pizzico di ironia che non guasta mai. Sentiamo il resto che credo, da quel che ho capito, sarà leggermente, anche perché ho un'anticipazione dell'ANSA, credo che sarà leggermente più sapido. Avresti avuto un altro regalo di compleanno di parte dell'entità ufficiale. L'anno scorso, nel 26 gennaio, mi hanno dato una partita di squalifica. Quest'anno non ho meritato tanto, ho meritato solo questo incarico, no? Come si dice, questo differimento. E quando c'è differimento devo andare a parlare con le persone, nessun problema. Schneider, ti dico, dopo ho visto la partita una volta, due volte, tre volte in video. C'è un momento dove mi sono veramente emozionato, che è al 92esimo, 3esimo più o meno, quando Borriello lo insulta e lui fa con le due mani così alla faccia di Borriello. Mi sono veramente emozionato perché uno fa così, va via e due partite di squalifica. L'altro lo insulta di tutto. E li fa così di un modo molto carinoso e non succede niente. È un'immagine di TV veramente, veramente bella. Secondo me stavolta sale al 9. Beh, un'opinione molto molto personale, ma siamo più vicini al 9 che all'8.